Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Allora, ultime dai cieli di Milano, 2 giorni, 3 ore e 20 minuti prima del fischio d'inizio della Supercoppa di Doha tra Juventus e Milan. All'aeroporto della Malpensa splende il sole, nessuna notizia di problemi di visibilità, buone nuove anche sulla presenza del charter della Titan Airways, quello che ieri ha dato buca sabotando la partenza del Milan per il Qatar. Intorno alle 13 è atterrato a Milano, sta facendo benzina ed è pronto a ripartire con a bordo la squadra e Adriano Galliani, che ieri si è infuriato per il problema tecnico che costa un giorno di ritardo. Quindi Milan parte, se tutto va bene, ma ve lo racconteremo in diretta. La partenza del Milan. Milan che ieri ha minacciato di non andare a Doha a giocare la Supercoppa. Carissimo per Luigi Pardo. Ciao Pier. Sì. Ti faccio sentire. Insomma, c'è un danno, no? Sì, un danno c'è. Ragazzi, il danno c'è, è oggettivo. Poi non è che a questo punto il Milan non può vincere, però insomma è una trasferta complicata di una partita di Supercoppa che viene giocata in campo neutro, non vicino. Non facciamo una bellissima figura. Non facciamo una bellissima figura e c'è un danno, sicuramente. Non c'è dubbio, perché comunque, voglio dire, ci sono dei tempi di... Aspetta Pier, che ti recuperiamo, perché si sente qua. Malissimo, però proviamo a sistemare il collegamento. Beh, intanto vi dico, intanto saluto anche Stefano Eragno, ciao Stefano. Ciao, buona giornata a tutti. Intanto vi dico la risposta di Marotta sulla polemica di Galliani: non è il primo anno che scegliamo di giocare all'estero, quello che è successo al Milan lo abbiamo saputo appena arrivati a Doha, devo parlare con Galliani per saperne di più, non vedo motivi per cui i rossoneri non debbano giocare, mi farò spiegare tutto da Adriano. C'è anche la risposta di Marotta a Berlusconi, che ha detto che l'unico modo per fermare la Juventus è cambiare gli arbitri. L'esternazione di Berlusconi sia un'esternazione molto ironica, e quindi come tale anch'io rispondo e dico che noi siamo anche favorevoli, non è un problema, si può cambiare anche gli abiti. Sono certo, ecco, che Berlusconi abbia fatto una semplice battuta. Quindi, traducendo le sue parole, possono cambiare gli arbitri ma la Juventus resta più forte? Non dico che sia più forte, la più vincente sicuramente, questo è il palmarès stesso che lo dice. E ne dici, Stefano, li cambiamo gli arbitri? No, guarda, il problema io penso che sia stato, anzi sicuramente conoscendo anche il presidente, c'è stata molta ironia, anche perché sa benissimo che ora come ora la Juventus è la squadra più forte, sta meritando quello che sta facendo vedere in campo, perciò è normale che questa ultima situazione, quella del non partire per Doha per problemi tecnici di un aereo, potrebbe essere un problema di adattamento, di sì. Comunque sia, hai un giorno in meno per adattarti a orari differenti, a clima differente, perciò sicuramente è stato un danno, ma non voluto certamente da nessuno, è stata una sfortuna, e adesso niente, bisogna vedere come staranno i ragazzi, per una partita secca certamente faranno in modo di recuperare gli sforzi per ottenere un risultato importante. Sì, sistemiamo anche l'audio di Stefano Eragno, oggi non siamo fortunatissimi sulle linee, però effettivamente il tema è questo, Pier, noi per una notte ci siamo interrogati se sia o no davvero un danno sportivo partire con un giorno di ritardo per il Qatar. È un danno sportivo. È un danno sportivo. Chiaramente la presunzione di buona fede è totale, assoluta, ci mancherebbe altro, sarebbe gravissimo se non fosse così, quindi è ovvio che è così. È un errore che è avvenuto in buona fede, è un errore logistico, cioè, però sicuramente poi, siccome questi charter sono gestiti, se non sbaglio, dalla Lega, no? Cioè, no, neanche questo, ma difatti poi ne parliamo, perché poi alla fine non si è nemmeno capito con chi se la sia presa Galliani, però non è colpa perché del Milan, fanno tutto i catarioti, fanno tutto gli organizzatori. Sì, appunto, ma voglio dire, non è, diciamo, tanto per essere chiari, non è colpa del signor Luigi Baragliano, che salutiamo, no. Che non, magari tanti, la grande maggioranza dei nostri ascoltatori non conosce, ma è il travel manager del Milan, che sì, è proprio che quello che organizza i voli, sì. Ecco, non è colpa sua, è colpa di, non so se degli organizzatori catalogati della Lega. No, comunque, quindi il danno è oggettivo e non è imputabile al Milan. Detto questo, insomma, che dobbiamo fare? Cioè, questa è la sostanza. Sicuramente il Milan ha avuto uno svantaggio, ma credo che voglio dire, questo sia pacifico. Penso che anche sì, va Sembrone, pesato, no? Il mitico personaggio di Diego Pasatuoro, tifoso della Juve, sarebbe d'accordo, nel senso che è ovvio che in una partita che si gioca a parecchie ore di fuso orario da qui, arrivare con un giorno in meno è un problema. Sì, va pesato, c'è chi richiama Gagliani, insomma, sempre pronto a prendersi le scuse, c'è chi ricorda, arrivano i messaggi 349-238-6666, le squadre, le luci di Marsiglia, tante cose. Stefano, tu che di finale ne hai giocate, tra l'altro anche credo fuori, tu credo fossi in campo la prima Supercoppa giocata in America. Sì, siamo andati a Washington. E niente, lì andò tutto bene, però devo dire che il caldo era atroce, però noi siamo arrivati per tempo una settimana prima addirittura, non so quanti giorni prima, e l'ambientamento c'è stato. È normale che non deve essere una scusante, ma un danno, un piccolo danno, un piccolo vantaggio alla Juventus non voluto, però sicuramente che c'è, ecco. Ti sembra che Montella stia facendo di tutto per tenersi al riparo dalle pressioni, dicendo che la Juve è imbattibile? Ma no, ma lui dice le cose giuste, perché lui è un uomo di calcio e sa benissimo che la rosa della Juventus è più forte di tutte le altre. Non sta giocando, secondo me, al meglio per quello che è la rosa, però è normale che se vince adesso, che sia una squadra sempre quadrata, perciò non è spettacolare per il momento, ma penso che in futuro potrà anche essere spettacolare. Però è anche vero che in una partita secca tutto può succedere, anche perché è meglio giocare una partita secca con la Juve che non un'andata e ritorno, secondo me. E perciò, sai, tutto può succedere, ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma certamente sulla carta è la squadra favorita. Sì, tra l'altro un mese fa comunque il Milan la Juventus l'ha battuta, anche quella da un certo punto di vista era quasi una partita secca. Oh, grazie Stefano. No, grazie a voi. Ciao. Alla prossima. Auguroni. Grazie Stefano Ragno, auguri anche a te. Pier, ti faccio sentire invece un'altra voce di quelle di oggi relativa alla Roma. Il tema è Spalletti e il suo annuncio: o vinco o vado via. Nel calcio usa così, che poi io ci sto a dover avere l'imposizione di vincere perché si ha a che fare con una buona squadra e la ricerca deve essere quella lì. Però poi si fanno gli inventari, si arriva a un certo punto e si guarda, come diceva prima per esempio il tuo collega, ma la squadra segue, la squadra è attenta. Hai capito Pier, si fanno gli inventari. Sì, insomma sai che lo diciamo anche ieri, il tema è caldo, il tema è non è di oggi, poi adesso chiaramente questa dichiarazione ha un pochino sparigliato tutto, no? Nel senso che ha reso più visibile e più plastica questa tipo di situazione, ma insomma Spalletti ha rifiutato il rinnovo all'inizio dell'anno, quantomeno ha temporeggiato, quindi ipotesi. Sai che ho incontrato Auriemma? Sì, dove? Ti passo Auriemma, cioè Capuano. Capuano, Raffaele, ciao! Napoli c'è un bellissimo che si chiama Porta Capuano. Ma dove siete? Dove siete? Dove siete? Tutto. Dove siete? A Napoli. Dove siamo? Marcello, fa foto. E io parlo pure con lui. Mentre siamo in diretta su Radio 24. Io ti fanno le foto con lui. Adesso questa foto si autodistruggerà nell'arco di 5 secondi. 4, 3, 2, 1, boom. Raffaele, che fa domani il Napoli? Giovedì a Napoli che succede? Che succede? Secondo me vince il Napoli, secondo me vince il Napoli perché in un ottimo momento è una squadra che ha ritrovato quello che gli mancava, la compattezza, la continuità, la convinzione di ciò che è, ha trovato improvvisamente il bomber che sembrava non avere più come Milik, poi prima ancora Higuain. Oggi Napoli è la squadra più forte del campionato, deve solo continuare questa convinzione, questo autoconvincimento, e poi direi che se gli altri cominciano a sbagliare qualcosa il Napoli è presente, cioè. Addirittura la squadra più forte del campionato. Beh, del resto ha Mara Mertens, no? C'è questo accostamento tra Maradona e Mertens. Ah, l'hanno scritto, il mattino di Napoli. Il mattino di Napoli ha detto che Mertens fa il Diego. Mara Mertens. Lo dice Mara anche il nostro Giorgio De Luca, del resto. Non scherziamo con Mara. Mara non si tocca. No. Amare Mertens, sì, ma Mara Mertens evitiamo, anche perché non gli fa bene sapere questo. Anzi, diciamo che deve migliorare ancora. Un pochino. Perché sbaglia ancora qualcosina. 4 gol sono pochi, deve arrivare a 5. 5 con la partita. Grazie Raffaele, auguri. Ciao, ti ripasso Pier, auguri anche a te, ciao. Recuperiamo anche per Luigi Pardo, abbiamo il traffico, recuperiamo anche il traffico, che siamo un po' in ritardo. Allora, 800 24 00 24, quando siamo a 43 minuti dalla partenza del volo del Milan per Doha, sempre se riuscirà a partire, traffico. Tutti convocati. Convocati. Che ti succede? Tesoro. La solita sensazione. Abbiamo dimenticato qualcosa? No, questa volta non credo, ma ho quella sensazione. Brutti ricordi, tutto qui. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo portato tutto. Abbiamo portato tutti. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Credo che si è trattato di uno sfogo di un dirigente molto esperto che conosce bene il calcio, quindi sa, ecco, che questi inconvenienti possono anche capitare, cioè nonostante noi non vogliamo considerare una polemica nei nostri confronti, noi abbiamo rispettato quello che era un programma indicatoci dalla Lega, per cui arrivare un giorno prima e un giorno dopo secondo me non incide in quello che può essere il risultato finale. Sei su questo aereo? Sì, anche la mia famiglia, ma loro sono già dentro e io non voglio restare a terra. Sta dicendo che è un po' avvantaggiato il Milan, che arriva dopo? No, assolutamente no, ecco, però capisco il disagio che hanno subito, ecco, forse quello sì, perché il fatto di trovarsi all'aeroporto in attesa di un aereo che non arriva, questo è un disagio. Però, ecco, io credo che poco abbia a che fare con l'esito della partita di venerdì. Sei sicuro che la tua famiglia sia imbarcata? Sì, papà è salito un attimo prima che io le sbattessi addosso. Non credo che siano questi grossi vantaggi, per fortuna noi viaggiamo sempre abbastanza comodi, quindi non è quello, però a parte questo noi siamo arrivati qui prima e quindi dobbiamo sfruttare il tempo a nostra disposizione per prepararci al meglio, per vedere un po' come sono i campi, il clima, tutto quanto, e prepararci al meglio per questa sfida. A noi deve interessare soltanto questo. Ho perso l'aereo, 800 24 00 24. Allora, ho nell'ordine, oltre a Pierluigi Pardo, Franco Ordine e Massimo Zampini. Ciao a tutti. Ciao. Franco, mi devi rispondere a questi messaggi che stanno arrivando. Doha solo 2 ore di differenza rispetto all'Italia come fuso orario. Non stiamo andando in Australia, di che cosa parliamo? Ma quale danno giocatori allenati e preparati? Conta la mentalità, così facendo dimostrano di essere inferiori. Poi qualcun altro che scrive, insomma, sono i soliti magheggi di Galliani. Dai, difendi il Milan. No, io non devo difendere il Milan, io difendo la realtà. E la realtà è questa. Si può dire tutto, poi voi fate benissimo a fare, come dire, a prendere, a mettere le mani nel sacchetto del web dove potete trovare di tutto. Io invece faccio un ragionamento, come dire, da addetto ai lavori, e dico che obiettivamente quello di ieri è stato una complicazione in più sulla strada di una partita che non si può preparare certo in 36 ore. È un errore pensare che sia una scusa, è un errore pensare che possa diventare un alibi. Ma secondo te con chi ce l'ha Gagliani? Qualcuno mi spiega con chi ce l'ha. Come con chi ce l'ha? Ma ce l'ha con l'organizzazione. Sì, ma chi? Con la Lega Calcio, con i Catarioti, con la Juve, scusate, con chi? Scusate, ma la Juve non c'entra niente, perché la Juve è come il Milan, partecipa all'evento. Chi ha organizzato la trasferta? È la Lega Calcio, che è organizzatrice della Supercoppa d'Italia, che però dice Calcio, che sono i Catarioti. Aspetta, la Lega Calcio ha firmato un contratto con il Qatar che provvedeva alla logistica della trasferta. Indirettamente tra virgolette la responsabilità politica e morale è della Lega. Poi che il referente, certo, Catariota abbia fatto dei pasticci e non sia arrivato l'aereo, io avrei voluto vedere a parti invertite cosa sarebbe successo. Massimo Zampini, cosa sarebbe successo? L'inferno. A parti invertite avremmo fatto l'inferno, non saremmo andati a giocare. Ma no, ma è una complicazione, secondo me, io sono d'accordo con l'inizio, soprattutto di Franco, dice, è una complicazione perché è ovvio, cioè, come l'ha detto anche Marotta, meglio prendere il volo quando vai all'aeroporto piuttosto che prenderlo il giorno dopo. Questo capita anche per chi non deve andare per qualcosa di professionale, ancora di più per chi deve fare una partita. Ciò detto, hanno detto bene anche dal web, Doha non è l'Australia dove devi abituarti per una settimana al fuso, la partita, Franco dice, prepararla in 36 ore, il Milan spero e credo che l'abbia preparata al di là dell'ultimo allenamento a Doha o di due allenamenti a Doha. Quindi ovviamente tutto il resto è Galliani, ovvero sia uno che sa fare molto bene la sua professione, sa creare il clima giusto, sa creare eventuali alibi o eventuali grinta nei giocatori in più e tutto il resto, ma è una questione di cui non si può parlare per più di tre minuti, insomma, secondo me. Non so, ne parliamo da ieri sera, Pier, ma no, ma anche no, questo dei tre minuti, scusate, anche questo obiettivamente non si va in Australia. Allora, scusate, che clima c'è a Doha? Fa caldino, 25 gradi abbiamo detto. Sì. Che clima c'è a Milanello? Credo intorno ai 5. Sì, ieri mi pare che fosse molto più molto più freddo. Fa freddo. Allora, diciamo, raccontiamo le cose come stanno. Allora, se tu invece di allenarti a 20 gradi ti alleni a 2 gradi, ci sarà una differenza o no? Dai, su! Un giorno in più! Un giorno in più cambia la partita. No, ma non c'è dubbio, ragazzi, ma poi soprattutto da questo punto di vista, se volete tirare fuori la storia che non è successo nulla, che non ha cambiato nulla, allora vi prego, andate a parlare con gli UFO. Vi prego, fatevi un viaggio e andate a parlare con Marte, perché state raccontando la favola di Cappuccetto Rosso. Non la farei troppo grossa, però che ci sia un danno, ripeto, è indiscutibile, cioè che uno non come diceva giustamente Zampini, quando vai in aeroporto tende a prendere l'aereo e non arriva lì, gli dicono no, guarda, forse adesso parti tra un po', no, vabbè, ok, parti domani. Questo è indiscutibile, in più si aggiungono tutte le complessità di una partita da preparare a questo punto in poco tempo in terra, ovviamente, degli Emirati. Quindi questo è catariota, questo non ci sono dubbi, proprio su questo non ci sono dubbi. Poi ripeto, non credo che ci sia minimamente la malafede, anzi sono sicuro che non c'è malafede, c'è poco da recriminare, che la devi prendere con gli organizzatori catarioti. Tra l'altro, Pier, la cosa, non c'è la malafede, obiettivamente c'è il pressapochismo, la superficialità e diciamo anche dell'attentismo della società che ha organizzato l'evento. Esatto, assolutamente. Questo non ci sono proprio dubbi. Tra l'altro lo scorso anno ricorderete che ci furono invece problemi a livello televisivo sulla Supercoppa europea, anche ad incassare i soldi, anche lì. Infatti, questa volta ci siamo fatti pagare in anticipo. Tra l'altro, se vogliamo fare un ragionamento invece un po' di geopolitica, per tanto tempo si è detto che il Milan fosse il governo in questa Lega e la Juve fosse l'opposizione, quello che leggo sui giornali. Questa volta è successa una cosa che certamente non favorisce chi dovrebbe essere al governo, quindi questa secondo me è un'ulteriore dimostrazione del fatto che si tratta di un puro errore banale, assolutamente senza malafede, assolutamente senza nessuna gioco di potere dietro. Quindi da questo punto di vista dietrologia secondo me zero. Detto questo, il danno c'è, insomma, secondo me dire che c'è un danno è sbagliato, nel senso che in una partita nella quale devono essere assicurate le due squadre le stesse condizioni dal punto di vista logistico, queste stesse condizioni non ci sono state. C'è stato un pasticcio. Abbiamo un minuto prima della borsa. Vorrei sapere da Franco Ordine e da Massimo Zampini invece come vanno catalogate le parole di Berlusconi, cioè per battere la Juventus l'unico modo per fermarla è cambiare gli arbitri e cambiare i giudici. Franco. Ma è una battuta, no? Di che stiamo parlando? È chiaro che è una battuta. Però il presidente, insomma, raramente parla così a caso. No, ma il presidente è uno che ama in moltissime circostanze fare una battuta, perché se avesse fatto un ragionamento diverso, avesse voluto fare un ragionamento serioso, avrebbe potuto dire basterebbe Locatelli, invece ha fatto soltanto una battuta. Massimo? Beh sì, è una battuta, è molto molto molto infelice per una serie di ordini e ragioni che non abbiamo tempo prima della borsa di analizzare, diciamo poco veritiera, ecco, mettiamola così, è infelice anche lo fosse stato. Sì, però va sempre a toccare quel nervo lì. Certo, ma è la cosa più facile. Da bambini, quando avevo 7 anni mi dicevano Rubito, Juventino, quindi insomma siamo piuttosto triste, diciamo, come cosa. Dai. Va bene, dai, vi lascio. Grazie Massimo. Grazie. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao Franco, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao Franco Ordine, c'è la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Inutile che mi mandate le foto della maglia del Milan con lo sponsor di una notissima compagnia aerea. Se organizza la Lega insieme ai Qatariotti, il Milan, così come la Juve, va con i mezzi che gli vengono messi a disposizione. 27 minuti al decollo del Milan per Doha, ma noi siamo qui e ve lo racconteremo in diretta. 800 24 0024 se volete intervenire fino alle 15:30, oppure 349 238 6666 WhatsApp, SMS. Piera, ha scritto un amico, è possibile che abbia visto Pardo in giro in centro a Milano con il telefono all'orecchio o era solo uno che gli somigliava? Direi che è possibile, sì. È possibile. Sì. Quindi se vuoi, amico mio, puoi inseguirlo. Mi segui, ecco, vieni dentro questo negozio. Sì. Avrai che non nominiamo, perché già ieri abbiamo dato, insomma. Sì. Con il signor sì. Turrini. Esatto. Allora, Giorgio dalla provincia di Frosinone. Giorgio. Salve ragazzi, grazie di tutto e grazie per la comunicazione. Dici. Volevo chiederle che la cosa più importante secondo me in questa Supercoppa, temperature a parte, Doha aerei, è il fatto che si giochi a metà del campionato, cioè a campionato in corso. E quindi se la Juve dovesse vincere facile o vincere tranquillamente contro il Milan dopo aver battuto la Roma, il gap sarebbe confermato in maniera definitiva oppure no? E questo gap è paragonabile al gap Italia-Europa? Bah, io non lo so, credo che non cambi niente, Pier, che no, si giochi a dicembre. È chiaro che oltretutto poi ci sono le vacanze di mezzo, quindi è anche una partita, poi c'è comunque uno stacco, no? C'è comunque un time out dopo questa partita. Ma no, io credo che questa sia una coppa e è un'occasione per il Milan specifico per provare a interrompere una dittatura, sia pure soltanto in una competizione. Questi sono anni di dominio veramente di dittatura bianconera. Allegri ha ottenuto dei risultati incredibili, cioè le Coppe Italia non vanno sottovalutate, perché poi sono tornato un attimo con la testa all'eterno dibattito Allegri-Conte, no? fermi restando tutti i meriti di Conte, però insomma Allegri ha aggiunto anche le Coppe Italia in questi anni, sì, ha fatto delle stagioni perfette, quindi di che stiamo a parlare? Ecco, detto questo, la distanza c'è comunque, se anche il Milan dovesse battere la Juve non è che cambierebbe secondo me la favorita per lo scudetto e né tantomeno la distanza fra la Juve e le altre in classifica. Sicuramente può essere una partita, visto che qui si fa sul serio, è una competizione, se il Milan dovesse fare l'impresa magari le inseguitrici della Juve potrebbero trarne un minimo di speranza sulla battibilità di questa squadra, ma ripeto, è una situazione, si gioca per la Coppa. Tra l'altro Pier, insomma, se giochi questa partita il 15 agosto e come dice l'amico di prima da Frosinone, provincia di Frosinone, la Juve vince facile come dovrebbe fare venerdì contro il Milan, a metà agosto forse il messaggio è ancora più dirompente, cioè cambia poco, insomma, sì, che la Juve sia superiore lo sappiamo, non è che bisogna aspettare la Supercoppa. Vengono decise prima, ieri Marocchi giustamente diceva che è bella la Supercoppa all'inizio della stagione perché è una specie di kick-off di tutta l'attività di un anno calcistico, quindi io sono d'accordo che in realtà è più bella, però insomma lì si gioca lì, hanno preso i soldi, è una promozione per il calcio italiano che sia un'opportunità, diciamo. Nando Orsi, ciao. Buongiorno, buongiorno a voi. Che cosa ti aspetti venerdì da Juve Milan? Sì, mi aspetto una partita dove la Juve è sicuramente favorita, però in una partita secca, in un ambiente diverso, da dentro fuori. Il Milan ha già battuto la Juve, quindi è ovvio che la Juventus adesso sarà forse più concentrata, al di là di tutto, perché sa che incontra una squadra che è vero che tecnicamente può essere inferiore, ma che ha le possibilità per batterla, perché già c'è riuscita. Quindi questo sarà, è ovvio che la Juventus è un cannibale in questo senso, nel senso che vuole conquistare i trofei proprio a seconda di quando si presentano. Però insomma il Milan mi sembra che in questo momento, anche se è stata sconfitta da Roma, ha pareggiato con l'Atalanta, mi sembra una squadra in salute che Montella ha messo veramente in campo bene, ecco, quindi questo bisogna ammetterlo. La Juventus nella partita a San Siro ha avuto difficoltà nonostante poi il gol di Pjanic c'era, però ha avuto difficoltà a batterla e ha avuto difficoltà anche a fargli gol, quindi questo è un dato di fatto. No, ma tra l'altro io credo noi continuiamo colpevolmente a dimenticare il precedente, non quello di un mese fa in campionato, quello di sei mesi fa in una situazione forse ancora più sbilanciata, la finale di Coppa Italia. Insomma, il Milan se l'è giocata tutta, questa è una finale, una partita secca. Io onestamente mi aspetto che vinca la Juve, ma mi aspetto tutto tranne che sia una passeggiata assolutamente in discesa. Ci chiedo di fare due parole anche su quello che si è visto ieri a Bergamo, Atalanta-Empoli, poi le facciamo. Questa sera invece Inter-Lazio. La partita è molto importante perché affrontiamo un avversario diretto, un avversario che sta facendo molto bene, forte, che ha vinto 4 delle ultime 5 partite, è perché sta davanti a noi in classifica, quindi tutte le volte che incontreremo avversari ai quali possiamo prendere qualche punto saranno sempre scontri fondamentali. È l'ultima partita però dell'anno solare, non della stagione, quindi ce ne saranno tanti altri da appuntamenti importanti. Ci credo, perché credo che questa squadra abbia ampi margini di miglioramenti, ma adesso conta solamente una cosa, quella di far bene domani sera. È normale che a tutti piacerebbe chiudere con un risultato positivo. Sappiamo che incontriamo una grande squadra con grandi giocatori, che ha investito tanto, che ha avuto un po' di problemi con i cambi di allenatore con l'Europa League. Adesso ha un allenatore che conosco molto bene, che è un ottimo allenatore, che ha già dato un grandissimo segnale alla squadra. Noi dovremo essere bravi con le nostre caratteristiche, cercare di fare un'ottima gara domani sera a San Siro per chiudere l'anno nel migliore dei modi. Questi Pioli e Simone Inzaghi, mi dite Nando Orsi, Pierluigi Pardo, chi ha più da guadagnare dalla partita di questa sera? Pier? Beh, non so chi ha più da guadagnare. La Lazio se stasera riuscisse a vincere, come ho pronosticato, tra l'altro, farebbe un salto di classifica e cambierebbe completamente la percezione di tutti. Perché veramente sarebbe una Lazio la Champions, cosa che secondo me può essere se una fra Roma e Napoli stecca. La Lazio secondo me è molto vicina ed è molto solida. Per l'Inter è l'ennesimo treno, adesso c'è una striscia positiva e questo è indiscutibile, insomma. Per l'Inter è il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso, perdendo la partita contro la Lazio prima di Natale, cominciò il declino. Questa deve essere invece la partita della rinascita, però insomma partita bellissima, interessantissima. Io credo che la Lazio sia più squadra, l'Inter probabilmente ha più colpi, ha più talento, più somma di talento, però io poi sai come la penso, sempre che ci sia una valutazione. La Lazio sia superiore all'Inter? Io penso che la Lazio sia superiore all'Inter. Da quest'estate? Sì, penso che sia un po' sottovalutata in generale, complessivamente, un po' mediaticamente, forse anche perché comunque sappiamo che arriva da un'estate complicata con i famosi 11 abbonati, con Bielsa, con un ritiro quasi surreale da Auronzo, no? con molti tifosi ma con basse aspettative. Invece la squadra è buona e ha trovato un grande allenatore. Ha ragione Nando? Sì, ha ragione. Cioè, è sottovalutata? Non è sottovalutata, secondo me ancora il campione italiano non ha capito contro chi ha a che fare. Invece secondo me la Lazio è una squadra che dà fastidio a tutti, che gioca bene, che ha personalità. È ovvio che deve migliorare sotto l'aspetto quando gioca contro le squadre più importanti, dove ha sempre perso e ha pareggiato soltanto col Napoli. Ecco, la crescita deve essere quella. E comincia a crescere anche sotto quel punto di vista, e la partita di stasera ne è una testimonianza. Secondo me fa un passo in avanti veramente straordinario. Per l'Inter secondo me è da dentro fuori. se l'Inter perde l'ultimo treno per la Champions è andato, perché poi dopo è vero che mancano 18, 19 partite o 20, mi sembra, quante ne mancano, però è anche vero che deve andare a prendere, andrebbe a 10 punti dalla Lazio, con un prospetto obiettivo di Champions League dove deve raggiungere il Napoli e la Roma, che sono squadre che in questo momento sono le più accreditate. Però la Lazio, ripeto, mi sembra più squadra, l'Inter è una squadra brava nei singoli, dove se però trova la partita dove i tre o quattro lì davanti gli vanno bene, insomma diventa difficile per tutti. Sì. Insomma, non possiamo dimenticare che l'Inter con De Boer ha vinto contro la Juve, quindi questo è un dato di fatto. Cioè sì, che però non possiamo dimenticare nemmeno che l'Inter con De Boer, ma anche dopo, quando non ha avuto certi giocatori e certi equilibri, ha perso anche partite incredibili. Questa sera quei giocatori non ci sono. Felipe Melo, Medel. L'handicap dell'Inter è questo, cioè può trovare delle grandi partite o anche delle bruttissime partite. Fino adesso ha trovato quella quasi sempre quelle più brutte che quelle più belle, però è sempre l'Inter, con giocatori davanti, con Icardi, Perisic e Candreva, e se trovano la serata diventa difficile per tutti, quindi è una partita bella, difficile e aperta secondo me. Io credo, Pier, sia difficile immaginare l'Inter che vediamo stasera. Ripeto, tra l'altro manca Felipe Melo, che fino a un mese fa era fuori dal progetto. Manca Medel, che manca dal derby. Ma l'Inter stasera, diceva giustamente Nando, se perde, se non è, anche se pareggia, insomma sarebbe abbastanza una bocciatura, no? Poi è ovvio che mancheranno ancora 20 giornate, quindi tutto è possibile. Però insomma, stasera l'Inter deve giocare per vincere questa partita, per provare a riavvicinarsi, e non ci sono molte alternative, non è nelle condizioni secondo me di poter giocare con due risultati su tre, probabilmente come valore assoluto ha qualcosa della Lazio, perché probabilmente come somma di talento può avere qualcosa in più, però la Lazio ha una solidità incredibile, la Lazio ha una percentuale di partite vinte con le piccole, con le medie piccole straordinaria, che è superiore anche a quella di Roma e Napoli. Poi sicuramente è mancata nelle grandi circostanze, forse perché ha qualche limite ancora dal punto di vista della personalità, e probabilmente è una squadra che finché viaggia a fari spenti ha questo vantaggio, ecco, esattamente come ti dico, secondo me, che è un po' sottovalutata e anche tra virgolette colpa dei media, no? che se ne parli meno delle altre, però esattamente come è vero questo, anche vero che questo cioè, tante volte magari è un vantaggio, nel senso che può affrontare la stagione con molte meno pressioni rispetto al Napoli e rispetto alla Roma. Ha bisogno di restare coperta. Sì. Abbiamo meno di un minuto prima del traffico, poi vi saluto entrambi, però così rispondiamo ai messaggi che arrivano soprattutto da Bergamo, che ci chiedono due parole sull'Atalanta, anche quella di ieri che ha vinto soltanto al 94esimo e però si è rimessa in piedi, Nando. Diciamo che Gasperini sta facendo un mezzo miracolo, perché è una squadra questa giovane, veramente giovane, e che invece sta facendo giocare bene. Mi ricorda un po' il Gasperini del 4-3 a Genova, quando fece un campionato straordinario, il primo Gasperini. L'Atalanta mi sembra stia viaggiando proprio su quel livello lì, quindi se li merita tutti, perché ha anche battuto squadre importanti, ha battuto il Napoli, ha battuto la Roma, quindi ha pareggiato col Milan, quindi al di là di tutto mi sembra una squadra che lo merita. E anche ieri si è vinta al 94esimo, però la partita la meritava di vincere prima. Sì, veniva da partite particolarmente sfortunate, soprattutto quella con l'Udinese, una gliela data al calendario andando a Torino, dove è storicamente complicato per tutti e non soltanto per l'Atalanta. Grazie Nando. Grazie, ciao Nando. Ciao, Nando. Orsi, tu Pier sull'Atalanta, c'è anche chi ci dice Caldara, ennesima grande partita, Gagliardini ruba gli occhi. Beh, l'Atalanta è tanta roba, come diciamo noi giovani. Sì. Questa vittoria serve a ridare un po' di benzina alla classifica, un po' di entusiasmo, a chiudere la grande 2016 che è stato veramente strabiliante. L'Atalanta ha avuto una continuità di risultati incredibili, soprattutto considerando che era partita male. Gasperini, lo sappiamo, ha fatto una scelta dopo le prime 3-4 partite difficili, ha deciso di fare completamente di testa sua, non che prima non lo facesse, ma ha deciso di prendersi anche qualche rischio in più, di dare fiducia ai ragazzi, e credo che insomma sia meriti proprio un premio da parte di tutto il calcio italiano, quello che sta. Poi i ragazzi sono bravi, non è solo il merito di Gasperini, però tirar fuori tutto questo talento, credo che insomma Ventura gli possa mandare per Natale una sana boccia di Sassicaia, perché veramente quello che sta facendo è incredibile ed è, credo, in prospettiva molto molto utile. Semmai, ecco, c'è questo, se vuoi, c'è anche questa dinamica della Juve che pare si sia già mossa su alcuni di questi prospetti dell'Atalanta, quindi ancora una volta c'è un elemento di anticipo della Juve rispetto alle altre, ma questa è chiaramente la meglio gioventù, come c'è un vantaggio Roma, di una decina d'anni con la J del calcio italiano. Assolutamente, ciao Pier, grazie, ciao, a domani. Ciao. Pierluigi Pardo domani, Caldara non c'era ieri, è rimasto in panchina. 800 24 00 24, abbiamo il traffico, poi vi facciamo sentire le parole di Gagliani, che si è imbarcato e tra 14 minuti parte per Doha insieme al Milan. Ci sono anche le prime parole di Gabigol, dopo quelle della presentazione ve le facciamo sentire. Ci sono Riccardo dalla provincia di Perugia e Flavio da Torino, che saluto e invito a restare lì dopo il traffico, ci sono anche loro. Tutti convocati. Convocati. Difficile commentare, è chiaro che noi una partita dominata lungo, anche il primo tempo, però è evidente che negli ultimi 16 metri abbiamo bisogno di crescere e migliorarci molto, perché il volume della squadra è veramente notevole e anche le tante occasioni create. E noi dobbiamo essere assolutamente più precisi, anche più potenti nelle conclusioni, perché così, altrimenti ogni partita è veramente una sofferenza. Questo Gasperini ieri, l'Atalanta ha rischiato, così come aveva rischiato la beffa poi confezionata contro l'Udinese in casa, però l'Atalanta chiude al sesto posto, 32 punti comunque vadano le partite di stasera e di domani, anche se l'Inter dovesse vincere, salire a 30, l'Atalanta chiude il 2016 al sesto posto. Ieri abbiamo provato a fare il podio degli allenatori rivelazione di questa stagione. Beh, c'è Sarri, c'è Allegri, c'è Montella, c'è sicuramente anche Gasperini, c'è Simone Inzaghi. Questo, al di là del dominio della Juve, è un bellissimo campionato. Riccardo dalla provincia di Perugia, 800 24 00 24. Riccardo. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Grazie a te. Io volevo fare una risposta a quello che ha detto Berlusconi riguardo agli altri. Sì. Allora, è vero o non è vero che sta vendendo il Milan ai cinesi? Sì. Perlomeno è vero, ci sta provando. È vero, sì. O è vero o non è vero che i francesi stanno facendo la scalata, come dice lui, ostile al Milan, sì, al media. Allora, sì, faccia pressione sulla federazione, faccia venire un po' di arbitri dalla Cina, un po' della Francia, e risolvi i suoi problemi. Quello che non riesce in campo, il Milan lo farà con gli arbitri di parte. Sì, ma io credo, Riccardo, che quella di Berlusconi sia stata una battuta. Poi, insomma, il dubbio che Berlusconi le battute non le faccia mai a caso viene. Però, insomma, chi gli è intorno giura che questa volta si sia trattato soltanto di una battuta. Ci sono anche tanti tifosi della Juventus che ricordano che un mese fa il Milan, la Juve l'ha battuta anche grazie alla svista di Rizzoli sul gol di Pjanic, ad esempio. Anche questo è un dato di fatto. Flavio da Torino. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. L'ascoltatore precedente mi ha mangiato la domanda. Comunque io mi chiedo come sia possibile che i media possano ancora dar retta a una persona che sono 20 anni, anche più, che prende in giro gli italiani e oltretutto un pregiudicato. Per cui io direi ai media, se possiamo restare nell'ambito del calcio, Flavio, ma proprio perché stiamo nell'ambito del calcio, sì, proprio perché stiamo nell'ambito del calcio, perché se fosse vero quello che sono le notizie che trapelano dal fatto di questi 500 milioni che arrivano da non si sa come, che notizie trapelano, vuol dire andare a mettere dei soldi in un ambiente che comunque è un ambiente che non può confrontarsi con questi soldi qui. E quindi vuol dire, ma nel calcio ci perdono tutti, ecco, o quasi tutti, sono rarissime eccezioni. Dai media dico che prima di parlare e far vedere, di far sentire quello che dice questo signore, io ci penserei sopra un attimo. La ringrazio. Io credo che se il presidente onorario, nonché ancora azionista di maggioranza del Milan, fa una battuta sulla Juventus, gli arbitri a 3 giorni della finale di Supercoppa tra Juventus e Milan, io credo che giornalisticamente si possa riportare. Poi proviamo a spiegarla, proviamo a capire se è soltanto una battuta, insomma, sentiamo anche che cosa ne pensate voi, che è quello che stiamo facendo. Aldo dalla provincia di Milano. Aldo. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. Buongiorno a te. Io innanzitutto premetto che sono juventino, appassionato di Allegri, e sono contentissimo che sia venuto al posto di Conte, perché la Juve gioca molto meglio rispetto a prima, anche soprattutto a livello europeo. Basti ricordare radioascoltatori la partita di Monaco di Baviera dell'anno scorso, che Conte non avrebbe mai fatto dominando per 60 minuti così. Poi vabbè, la beffa della fine. Comunque, a prescindere, la mia telefonata era legata alla proposta che avevo letto qualche anno fa sulla Gazzetta, che secondo me è molto interessante e volevo riproporre in radio a tutti gli ascoltatori, legata ai rigori e ai tempi supplementari. Se invece di fare i rigori dopo i supplementari si facessero prima e si potessero giocare i supplementari dopo i rigori, andrebbe così: chi vince i rigori ha il vantaggio, quindi in caso di parità dopo i supplementari vince la partita, e l'altra squadra avrebbe l'obbligo ovviamente di ribaltare durante i supplementari il risultato eventualmente negativo dei calci di rigore per rendere i supplementari, cioè per rendere la mezz'ora finale, per costringere uno dei due ad attaccare. Sì, perché altrimenti si rischia la noia negli ultimi minuti dei supplementari, dove tutti magari cercano di arrivare al calcio di rigore. Sì. L'ultima cosa. Io però credo, Aldo, perdonami, poi ti faccio finire. Io credo in realtà che la noia spesso dipenda dalla stanchezza con cui si arriva. Beh, però magari fare 10-15 minuti di pausa per calciare i rigori potrebbe consentire anche ai giocatori di recuperare qualche energia. Poi... L'ultima cosa che volevo dire era il discorso del ritardo dell'aereo. Io quest'anno sono andato a fare la maratona di New York, sono partito il venerdì sera e la gara ce l'avevo la domenica mattina. Sì, però tu dovevi arrivare in fondo, non dovevi vincerla. Non ho chiamato Obama per dire che c'era l'aereo in ritardo, sì. E quindi penso che i professionisti riescano a gestire benissimo questo giorno in meno, cioè mi sembra un mettere le mani avanti. Non lo so, Gagliani, io credo, però... l'abbiamo detto prima, Aldo, che insomma il danno ci sia, e insomma credo che a parti invertite anche la Juventus avrebbe avuto qualcosa da ridire. Poi insomma vediamo venerdì pomeriggio, venerdì sera, quanto incide, se incide questa cosa. A proposito, vi faccio sentire Gagliani pochi minuti fa all'arrivo alla Malpensa: mancano 6 minuti al decollo del Milan. È partita una sola, adesso partiamo un giorno dopo, basta. Poi se è un vantaggio o uno svantaggio non mi interessa, comunque non era previsto. Sono colpevole, quindi è inutile anche cercarlo. Ma no, il colpevole voglio dire è un aereo che non è arrivato. Quindi no, ma dai, su ragazzi, fate i bravi. Fate i bravi se potete. Gabigol, le prime parole italiane. Oh Gabi, tutto bene Gabi? Come stai? Bene, tu? Bene, bene. Parli italiano? Bene, grazie. Bravo. E parlo troppo però. Che isso, formaggio? Sì, formaggio e parti insieme. Va bene così? Gabigol che si abitua al mangiare italiano, pasta e formaggio. Un video che ha trovato il nostro Giorgio De Luca in giro per il web. 800 24 00 24. Ilario dalla provincia di Udine. Ilario. Sì, buongiorno. Comunque questa sera Gabigol non gioca, parte dalla panchina. Ilario. Allora, buongiorno a tutti. Io volevo intervenire per quanto riguarda gli stadi di proprietà. Sì. Visto che sono un po' udinese, finalmente abbiamo uno stadio in cui veramente le partite si riescono a vedere. E visto che finalmente si riescono a vedere bene, anche vedo che la gente è ritornata a Udine, a malgrado anche se all'inizio non siamo partiti bene. Quindi io mi chiedo e vi chiedo: a quando ci sarà la possibilità di girare l'Italia verso stadi di proprietà e poter vedere finalmente le partite in modo decente, visto anche i prezzi dei biglietti? Ma io credo, Ilario, che manchi ancora un po', o no? Anche a Udine ci hanno messo qualche anno prima di mettere in piedi il progetto, giusto? Sì, sì, sicuramente, solo che adesso faccio per dire la mia signora che allo stadio prima era venuta una volta e ha detto mai più, adesso si è innamorata e viene spesso allo stadio di lei, perché veramente anche l'atmosfera si respira è completamente differente, anche perché la dimensione dello stadio senza la pista è uno stadio da calcio, non è più uno stadio da atletica adattato al calcio. Sì, questo è il problema che hanno tanti stadi, a prescindere che siano di proprietà o no. San Siro non è di proprietà, si vede bene, benissimo, però evidentemente bisogna fare il salto. Carlo da Milano, Carlo. Carlo? Sì, buongiorno, sì, buongiorno. Senta, io, come dire, una mia proprio opinione del tutto personale, quando se è balinata la notizia, insomma, è arrivata così come fu necessario l'acquisto dei cinesi del Milan, io ho avuto questa sensazione, insomma, che ci fosse un movimento di soldi con zero interesse da parte dei cinesi di acquistare il Milan. Quindi, cioè, li stanno regalando, così? È una cosa, come? Li stanno regalando? No. No, no. Lo sta facendo rientrare Berlusconi. bravissimo, bravo. Bravissimo. Allora faccia questo così, vada in procura, fa una denuncia. No, però non, è che no può, scusi, non è che può pensare di venire qui a raccontare questa cosa, no, che così insomma che... No, io ho detto, sì, è una mia impressione, aspettiamo e vediamo, però è un'impressione che sì, è una voce, è un'impressione che oggi non ha fondamento, non ha, insomma. Poi vediamo, magari invece scopriamo che è così. 800 24 00 24, torniamo dopo il GR delle 15. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens. Finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Convocati. Credo che la Fiorentina deve cercare di essere se stessa, sempre. Lavoriamo per essere se stessa e abbiamo dimostrato che riusciamo a competere anche con le squadre che hanno interprete con molta qualità tecnica. Il gruppo ha reagito benissimo, nel senso che sono sconfitte che fanno male, però poi va fatta una valutazione obiettiva, va fatta un'analisi obiettiva dentro l'analisi che si fa di solito dentro lo spogliatoio. Questi Paolo Sosa e Spalletti. 800 24 00 24, domani si completa la giornata di campionato, ci sono due partite interessanti, non solo Inter-Lazio di questa sera, c'è soprattutto Fiorentina-Napoli che è un'altra porta verso il paradiso della zona Champions. C'è la Roma, abbiamo sentito Spalletti dire che la sconfitta di Torino con la Juve è stata metabolizzata, la Roma che ospita il Chievo e ha soltanto la vittoria per provare a chiudere al secondo posto. Qualche notizia, Totti, Nainggolan e De Rossi sono a rischio, si decide dopo l'allenamento di questo pomeriggio. E poi insomma Spalletti si è impegnato molto a parlare delle questioni legate al contratto e non solo. Sandro Sabatini, ciao. Ciao, ciao. Interessante come giornata, per essere all'ultima che chiude questo 2016. Tutto molto interessante, un po' affogato tra altri impegni prenatalizi che probabilmente distraggono. Cioè, nel senso che stai in giro a fare gli acquisti anche tu come Pardo. Sì, molto sì. Tento di delegare, però non ci riesco, e insomma poi alla fine vabbè si fa il possibile, però insomma le scarpe da calcio per i figlioli deve comprare il babbo, ecco, questo è poco, certo, ma sicuro, certo, non certo. si può delegare, ma non tutto, però a parte gli scherzi credo che sia un turno di campionato fin troppo interessante considerando che mancano due partite con le due squadre impegnate in questa Supercoppa dai contorni abbastanza, anche se vogliamo, misteriosi di Doha. Sì, a proposito, prima abbiamo sentito Gagliani che ha provato a chiudere questa storia della polemica dell'aereo. Siamo in attesa dell'ufficialità che l'aereo del Milan è decollato verso Doha. Ti faccio sentire Gagliani invece proprio sulla Supercoppa. È una finale molto importante, quest'anno voi lo sapete, io continuo a ripetere lo stesso concetto che più delle volte arriva distorto, vediamo se riesco a spiegarmi. Io continuo a dire questo, che abbiamo incontrato due volte in campionato la Juventus in questo anno solare, una vinta e una persa, giocando alla pari due volte. Abbiamo fatto la prima delle due finali, abbiamo perso ai supplementari giocando come la Juventus, adesso abbiamo la seconda finale, quindi è bello, 4 partite con la Juventus in un anno solare è una cosa carina. È una cosa carina e poi non è nemmeno detto che vinca sempre la Juve, no Sandro? No, ha ragione Gagliani, anzi secondo me ha talmente ragione Gagliani che i risultati sono stati bugiardi rispetto al gioco che si era visto in campo. Mi viene in mente la finale di Coppa Italia, il Milan l'ha vinta supplementari, ma insomma aveva giocato meglio, scusate, la Juventus l'ha vinta supplementari, ma il Milan aveva giocato meglio. Mi viene in mente l'ultima partita di campionato in cui la Juventus aveva giocato meglio, soprattutto il primo tempo, e c'era stato quel gol tutto sommato valido, sì, di Pjanic. Eppure a proposito di arbitri, giudici, no, la battuta di Berlusconi. Ma sai, la battuta di Berlusconi, poi io voglio vedere in che contesto è stata fatta. Sai, sono le famose battute da bar. Ora, d'accordo che magari il bar non è il bar sport che c'è sotto casa nostra, ma è la uvetta del Parlamento, dove in teoria ci dovrebbe essere un maggior contegno e maggiore signorilità e rispetto altrui, però io credo che tra calcio e politica, di rispetto per gli altri, insomma, si sia abbastanza smarrito, quindi le battute evidentemente sono quelle del bar. Senti Sandro, questo è un Natale con tanti allenatori sotto i riflettori positivamente, poi ci sono quelli che sono in difficoltà. Prima abbiamo sentito Paolo Sosa. Tu ti sei spiegato perché la storia di Paolo Sosa con la Fiorentina stia finendo così? Allora, Paolo Sosa io lo conosco, è un personaggio molto contorto, una persona molto contorta, molto tenebrosa, molto intelligente e colta, ma che fa troppi pensieri e retropensieri. Sta finendo perché ha troppi retropensieri sulla Fiorentina, mi spiego meglio. Se tu sei a Firenze e non diventi fiorentino, toscano, nel senso che ti lamenti di tutto, ma comunque a fin di bene, non puoi, dopo un po' non puoi più sopravvivere. Se invece ti lamenti di tutto, ma dai l'impressione di essere estremamente distaccato. Riprovo perché non mi è uscita tanto bene. Il fiorentino, al fiorentino non va bene nulla, però è contento di stare a Firenze. Certo. A Paolo Sosa in che cosa c'è stato il distacco? Perché anche lui ha detto non va bene nulla, ma non mi va più di stare a Firenze. Lì si è rotto qualcosa. Non è che continua a pagare intanto il fatto di essere un'immagine storicamente juventina, e poi magari l'estate scorsa di averci anche fatto un pensierino alla Juve, cosa che a Firenze non gli perdonano, non gli possono perdonare per mille motivi. Ma sì, e questo può essere una buona metà della spiegazione. L'altra metà è che comunque la Fiorentina di Paolo Sosa è stata bella soltanto per un girone, quello d'andata dell'anno scorso. Già nel girone di ritorno dell'anno scorso, in questo girone d'andata, insomma, si è vista una squadra non bellissima, ecco, sia nei risultati sia nel gioco. Normale. Ti chiedo due minuti di pazienza, Sandro. Ci sono Giampiero dalla provincia di Latina e Pietro da Ferrara. Giampiero. Sì. Eccoci. Sì, buonasera. Senta, c'era prima un ascoltatore che parlava dei tempi supplementari, sarebbe il caso di farli dopo. Io direi solo semplicemente di fare, allora aspetta, diciamo perché non l'ha sentito. Lui proponeva di fare i rigori prima dei supplementari, così da dare un vantaggio a una delle due squadre, e di fatto costringere l'altra ad attaccare per vincere nei supplementari. Prego. Io direi già una modifica che si dovrebbe fare subito senza sconvolgere questa la situazione attuale, sarebbe aggiungere almeno due cambi per quanto riguarda le squadre che fanno i supplementari, quindi oltre i tre classici aggiungere due cambi per permettere di avere più freschezza e anche addirittura cambiarli poi qualche giocatore fortunato. Sì, vedere qualcosa di diverso. Sandro, io credo che insomma a gennaio, quando ritorneremo dopo le vacanze, cambieranno tante cose. Non so se sia un bene, non so come la pensi tu. Ma penso, non lo so, io alle novità sono sempre aperto, salvo poi valutarle ed eventualmente criticarle dopo, oppure accettarle e benedirle. Ma guarda, sugli due cambi durante i supplementari sono assolutamente d'accordo, perché darebbero più freschezza a una partita che inevitabilmente in quei minuti supplementari risente della stanchezza. E ho sorriso incuriosito immaginandomi una partita invece prima i rigori e poi i supplementari. Sai che sarebbe però un bel tentativo da provare? Sì. Perché supponiamo un bel 5-3 e poi si prosegue con i supplementari ripartendo dal 5-3 dopo i rigori. No, ma anche semplicemente come diceva il nostro amico, creando uno squilibrio, cioè dicendo prima, se alla fine dei supplementari siete pari, c'è una squadra vincente che ha già un nome, il che costringe l'altra a giocarsi i supplementari in maniera più aperta e quindi si presume creando uno spettacolo maggiore di quello che ogni tanto è. Poi insomma, io credo vada anche ricordato che i supplementari, così come sono da più di mezzo secolo, hanno scritto pagine indimenticabili del calcio mondiale. Sì, una su tutte, quelle famose Italia-Germania, no? Del 1970, ma anche altre partite, sì, è vero, però magari un tentativo si può anche fare. L'unica cosa che non capisco, Carlo, è se poi supponiamo che i rigori danno un vantaggio a uno, di un gol, supponiamo. Sì. Poi nei supplementari quella che è in svantaggio pareggia, a quel punto bisogna studiarlo. bisogna mettere un correttivo. Bisogna passare tutto a Infantino o a Van Basten, che sta studiando un nuovo fuorigioco. Pietro da Ferrara, Pietro. Sì. Eccoci. Ah, io volevo intervenire perché qualche minuto fa c'era un signore che ha parlato un po' male di Berlusconi. Io direi che si sciacqui la bocca dal Milan, che il Milan nei suoi 20 anni o più di presidenza ha vinto tutto, è una delle squadre più forti del mondo, è stata, e adesso se lo dà, alla sua età se lo dà in mano a gente che ha dei soldi, è meglio così. Per adesso io direi che meglio di così non poteva fare Berlusconi, basta, ho detto giusto? Bah, per 25 anni di sicuro, gli ultimi 5 magari meno, Pietro, questo che dice l'Albo d'Oro, questo dice la storia di queste ultime stagioni, Sandro. Sì, però è anche vero, e qui lo dico io, per esempio, sulla battuta che ha fatto ieri il campionato, la Juve lo decidono gli arbitri o i giudici, è chiaro che sarò libero di criticare Berlusconi, pur essendo un suo dipendente, però qui c'è la massima libertà di espressione e di giudizio. Sul bilancio dei suoi 30 anni alla guida del Milan, io penso che invece abbia ragione questo amico che ha telefonato, perché io credo che sarà veramente irripetibile quello che, per qualsiasi presidente, quello che ha fatto Berlusconi con il Milan. Poi sugli ultimi 5 anni, sugli ultimi 5 anni, Giovanni, è dura. Ma sai, lo dice lo stesso Berlusconi quando dice io il Milan devo cederlo perché non mi sono reso conto di non essere più a livello delle sfide economiche, finanziarie che il calcio propone oggi e propone in realtà da qualche stagione. Insomma, di fatto certifica da solo che c'è un prima e c'è un dopo. E poi tutte le storie finiscono, Sandro. Tutte le storie finiscono. La cosa che effettivamente però diventerà un rimorso, un rimpianto, insomma, che verrà vissuta con grande nostalgia anche nel corso, in futuro, sarà quella del Milan giovane italiano, perché poi non solo per i risultati, ma i tifosi si affezionano quando una squadra è giovane ed è fondamentalmente italiana. Ecco, questo progetto, anziché andare a prendere alcuni giocatori che hanno poi più o meno miseramente fallito, stranieri, secondo me questo progetto Berlusconi lo doveva coltivare prima e non soltanto adesso, quando ormai, per la sua storia di presidente, tutto fa pensare che sia troppo tardi. Sì, sempre che noi aspettiamo, fine febbraio, il 3 marzo, tutto quello che sarà, ieri vi abbiamo dato qualche notizia. Grazie Sandro. Grazie a te Giovanni, tanti auguri a tutti. Auguri anche a te, ciao. Grazie a Sandro Sabatini. C'è Roberto Renga che saluto. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Allora, intanto leggo un messaggio arrivato al 349-238-6666. La storia tra la Fiorentina e Paolo Sosa è finita nel mercato di gennaio dell'anno scorso, quando non è arrivato il difensore ed è svanita la possibilità di arrivare terzi. Può essere. Però, insomma, c'è anche da dire che la Fiorentina nella seconda metà della stagione dell'anno scorso e anche per lunga parte della prima metà di questo campionato è stata abbondantemente sotto il livello. Oh, Roberto, ti faccio sentire un pezzo di quello che ha detto oggi Spalletti. Ha parlato tanto sulla questione del contratto, del rinnovo, se va o resta a fine anno. Nel calcio usa così, che poi io ci sto a dover avere l'imposizione di vincere perché si ha a che fare con una buona squadra e la ricerca deve essere quella lì. Però poi si fanno gli inventari, si arriva a un certo punto e si guarda, come diceva prima per esempio il tuo collega, ma la squadra segue, la squadra è attenta. Io ho questa impressione, Roberto Renga, che si fanno gli inventari, che Spalletti non sia convintissimo di restare, ma che stia anche utilizzando questa cosa, questa tattica comunicativa per provare a tenere tutti sulla corda, per provare a tenere un ambiente in tensione giusta per capire se poi la Juve lascia aperto uno spiraglio. Ma guarda, le interpretazioni sono moltissime, però va detto che per esempio anche Zeman era uno che firmava i contratti annuali, non accettava di fare i contratti biennali perché voleva valutare se stesso e la squadra anno per anno. Va detta anche un'altra cosa, che una cosa è Spalletti allenatore, ottimo allenatore, sicuramente tra i più bravi con i quali abbia lavorato, e un'altra cosa è lo Spalletti comunicatore, perché per esempio lo Spalletti che ovviamente secondo me, dal mio punto di vista, non vale lo Spalletti allenatore, anzi tutt'altro. Lo Spalletti comunicatore una volta ci ha detto, ma poco tempo fa, che questa era la squadra più forte che lui aveva allenato. Ecco, questo secondo me se lo deve ricordare sempre, e anche lui va valutato per quello che ha fatto in questo periodo a Roma. Non ha fatto malissimo, non ha fatto male, dai Roberto, cioè è arrivato ereditando una squadra che si stava sfaldando, terzo, 80 punti. Sì sì, ecco, però a due nei ci sono stati in questa gestione. Uno, la gestione è quella di Totti, che per molti incomprensibile l'anno scorso, e senza Totti probabilmente non sarebbe arrivato terzo. Ti ricorderai quando lo fece contro il Torino giocare 3 minuti, ha risolto più di qualche partita. Ecco, e quello è quando invece lo mandò a casa, ed era la casa di Totti, e il 3-0 con il Porto di quest'anno, era sempre lui l'allenatore. Quindi è vero, nell'insieme un'annata secondo me, e secondo tutti immagino, molto positiva, diciamo senza molto positiva, però con due nei. Lo sai che se batte, lo do per scontato, battendo il Chievo, Spalletti farà gli stessi punti di 10 anni fa. Ma cioè, proprio per questo è un nell'anno solare, proprio per questo sì. È un controsenso, voglio dire, che lui per primo, e tra l'altro contro il parere della società, apra questi scenari, questi dubbi, tutte queste riflessioni. Ma secondo me lui è anche, si rivolge anche alla società, oltre che a se stesso, perché magari si sta esaminando. Io sono quello di prima, non ho dato niente di più rispetto a 10 anni fa, quando c'era Totti, ti ricorderai, no? Che faceva un sacco di gol. Perché c'era anche una Roma più forte. Era la Roma più forte e c'era soprattutto Totti, che ti risolveva ogni problema, perché segnava sempre. Era Totti della scarpa d'oro, no? Era quello il periodo. E allora non c'era una Juventus di questo tipo, tanto che nel 2008 lui vinse la Coppa Italia e la Supercoppa, per esempio. Non fece bene in Champions, però la Roma tradizionalmente in Champions, certo una volta, non è che abbia fatto benissimo. Però dico, sono passati, mettiti dal suo punto di vista, sono passati invano 10 anni. Cioè in pratica è come 10 anni fa, gli stessi punti, ma con vittorie che non ci sono. Probabilmente si sta esaminando anche lui, oppure sta esaminando, forse sta esaminando il contesto e la società, il contesto, cioè se la Juve vince sempre, è destinata a vincere ancora per qualche anno, per 10 anni la Juve vincerà sempre, può darsi. 10 anni no, però in questo momento ha un vantaggio. Sai che più o meno diciamo i prossimi 5-6 sembra difficile trovare un rivale, per cui lui ha detto, appena arrivato, ha detto: io non sono venuto qui per arrivare secondo, ma per arrivare primo. E in questo momento è anche difficile arrivare secondo, perché c'è il Napoli che sta giocando molto bene, esistono anche il Milan e la Lazio, quindi lui sa che ci sono delle difficoltà obiettive. Poi si gira e non trova il presidente. Il presidente, io non lo so da quanto è che non viene, 6 mesi, 8 mesi, non lo so, non c'era nemmeno a Natale. E a Natale, quando gli è stato chiesto: ma scusi, ma lei non c'era nemmeno a Natale, ma è possibile? Ci sono i cinesi qui, quelli dell'Inter che arrivano, no? Hai visto, è arrivato anche oggi, sì, per vedere Inter-Lazio. E lui ha risposto: ma io sto a Boston a lavorare per la Roma. Ma io immagino che Spalletti tra 6 e 6 avrà detto: ma allora che andiamo tutti a Boston a lavorare per la Roma? No, però insomma Spalletti deve anche considerare che i risultati della Roma americana, che pur non sono arrivati a un successo, sono certamente migliori dell'Inter indonesiana, che ogni 2 settimane era a Milano. Cioè io credo che alle volte si debba anche fare un po' il conto. Di quella indonesiana sì, ma è difficile di provare nella storia del calcio italiano. Io e te siamo osservatori attenti, no? È una società che abbia commesso tanti errori a livello di mercato come l'Inter di questo periodo, sì. Anche quella di quest'anno, sì. Che compri tutti, se dimentichi di comprare i terzini magari, o un regista, e magari il difensore centrale, certo. È difficile. Però non è detto che sia semplicemente la distanza a fare la differenza. Grazie Roberto. Grazie a voi, buon lavoro e tanti auguri. Auguri anche a te, grazie Roberto Renga. Parliamo di basket, perché questa sera c'è Milano Panathinaikos, ultima spiaggia per l'Armani nella corsa dell'Eurolega. Tutto noi possiamo parlare, ma senza vittoria è difficile, cambiare, cambiare una, diciamo, mentalità, una tranquillità, riprendere tranquillità. E per questo vogliamo veramente entrare con una grinta, con una voglia enorme per vincere una partita per noi molto importante. Ore 20:30, diretta su Fox Sport. Geri De Rosa, ciao Geri. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo forse oltre l'ultima spiaggia, no? Ma guarda, l'Eurolega di quest'anno ha un calendario talmente lungo che è difficile dire ultima spiaggia, perché poi mancano ancora, manca tutto il giro di ritorno e altre 2 partite andata dopo stasera. Diciamo che col calendario che c'è, Milano è appesa a un cavo che settimana dopo settimana si sta sfibrando, si spezza un pezzettino, e quindi è sempre meno resistente, e il compito si fa sempre più difficile, anche perché Milano, continuando a perdere, è attesa da un giro di ritorno di grandi imprese. Hai visto come sta giocando, sta sempre lontane queste grandi imprese. Bisogna, sì, anche perché Milano ha perso 5 partite di fila, ma le ha perse contro gli avversari della seconda metà della classifica. Infatti, quello, questa sera. E quindi si aspetta un giorno di ritorno in cui dovrà vincere o a casa del Fenerbahce o a casa del CSKA o a casa del Real. Intanto stasera e diciamo dopodomani a Barcellona e il 29 contro lo Žalgiris, cioè tre partite delle ultime tre partite del giro di andata, diciamo almeno due vanno vinte, mettiamola così, e poi si vedrà. Secondo te Repić ha capito che cosa si è inceppato? Secondo me no, secondo me a poco la squadra gli sta sfuggendo di mano e lo si vede anche nelle difficoltà che ha avuto in campionato, perdendo a Venezia e facendo molta fatica contro Brindisi, perché ha fatto molta fatica, cosa che non era successa in precedenza. È una squadra che ha perso totalmente in autostima e mi sembra che abbia... stai pagando molto l'assenza di un leader, di uno di quelli che fa la faccia cattiva quando le cose vanno male, che dà magari anche una spallata, una spinta al compagno per scuoterlo un po'. Mi sembra, ecco, che sia un po' piatto l'elettroencefalogramma, perché comunque le capacità di questa squadra ci sono e all'inizio stagione sono state dimostrate. Questa squadra ha fatto qualche bella vittoria anche in Eurolega, adesso ha perso completamente il controllo della situazione. Sì, è stata forse anche un po' sopravvalutata in alcuni uomini. Poi parliamo del caso Gentile, rispondiamo anche a un amico che scrive un messaggio via WhatsApp per chiedere se questa sera giocherà. No, non gioca. No, non può giocare in Eurolega fino all'inizio del giro di ritorno e debutterà tra l'altro nel derby con Olympiacos il 6 gennaio in Eurolega. Probabile che debutti in campionato col Panathinaikos subito dopo Natale, però insomma, questo lo interessa relativamente. Stasera non c'è. No, invece diciamo sulla sopravvalutazione che è stata fatta forse di Milano, tu dicevi manca un leader, forse ci eravamo illusi che ci fosse anche tutto il resto e invece anche tutto il resto non è al livello che ci si era immaginati. Sì, io credo che per l'Eurolega si sia un po' sopravvalutati giocatori forse come Sanders, che ha un talento notevole, ma nell'Eurolega non sposta, si sia un po' sopravvalutato Kalnitis, che non è un playmaker, nonostante tutto il male che ci ha fatto con la maglia della nazionale agli europei e ai vari europei, contro l'Italia ha sempre giocato bene, ma si sta dimostrando un giocatore che non è in grado di prendere in mano la squadra. Chi ha un pochettino di materia di leader è Hickman, che però fatalmente, visti gli infortuni che ha avuto e l'età un po' avanzata, va sotto tanti e bassi e questo Milano lo sta un po' pagando. Comunque, ore 20, diretta a Fox Sport oppure al forum, insomma, guardatela dove volete. Milano Panathinaikos, ultimissima spiaggia quasi per questa Eurolega di Milano. Grazie Geri. Grazie a te, ciao e auguri a tutti. Auguri anche a te, grazie a Geri De Rosa. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci ritroviamo domani, dopo il GR delle 14, quando sarà vigilia dell'ultima giornata di campionato di questo 2016. Ciao.